Linee d'ombra di Matteo Caccia. Il mio lutto per la morte di mio fratello ce l'ho avuto tutto intero e non è stato alleviato dal trapianto. Penso che comunque il trapianto sia una cosa giusta, ma non è una compensazione per nessuno. Essendo coinvolta nella cura dei pazienti in attesa di un trapianto, non volevo e non dovevo influenzare la decisione. Sua moglie disse di sì, i miei genitori non dissero di no. Storie di un fratello geniale e di una nuova identità in una puntata che si intitola Un dono per te. Una sera, un sabato sera, ero a cena con tanti amici, un compleanno, mia madre mi chiama e mi dice: Alice, devi venire a casa perché c'è una notizia. E invece di andare io vengono i miei genitori e mi vengono a prendere con le lacrime agli occhi, e io capisco che qualcosa era cambiato. La frenesia, le emozioni che provi in quel momento non riesci neanche a descriverle poi, perché provi paura, felicità, gioia e tutto in un stesso momento. E poi arrivo in ospedale, vado a fare la preparazione e la mattina dopo vengo operata. E da lì è ricominciata la mia vita. Per me è come se fosse una rinascita. Quella che abbiamo appena sentito è la voce di una giovane donna che si chiama Alice, che racconta la sua storia in un video preso da YouTube all'interno di un contest, di una gara che si chiama Donation. È stato un contest di un paio d'anni fa, che era un progetto di sensibilizzazione sulla donazione degli organi promosso dalla Regione Marche. Noi l'abbiamo utilizzata perché la puntata di oggi si intitola Un dono per te e parla esattamente di quel tipo di dono lì, cioè della donazione dei propri organi. E le storie che vi raccontiamo oggi parlano di due donazioni, due doni diversi e di fatto anche di due trapianti diversi. Come sempre succede, sono storie che partono da un tema per andare oltre. Quindi qui si parla certo di trapianti, ma si parla soprattutto, devo dire, di identità e del concetto di regalo, di dono nel senso più ampio possibile. Siamo partiti come sempre da una storia che ci è arrivata da un ascoltatore, in questo caso da un'ascoltatrice che si chiama Maria, che nella fattispecie essendo un medico conosce molto bene i termini della donazione degli organi e a un certo punto questi termini che sono parte della sua vita professionale si sono incrociati alla sua vita privata, alla sua vita personale, perché il protagonista di questa storia sono lei e suo fratello. Come sempre facciamo, lasciamo la parola direttamente alle storie che raccontano sempre molto meglio di me. Benvenuti a Linee d'Ombra. Mio fratello era un vero genio. La mamma l'aveva intuito quando l'aveva ritrovato intorno ai 4 anni, intento a sfogliare un libro. Non un libro per bambini, quelli se li era fatti leggere così tante volte che ormai li sapeva a memoria. Era un vecchio libro di zoologia, stampato in caratteri piccoli, con foto e disegni in bianco e nero. Gli si era seduta accanto e gli aveva detto: «Che stai facendo?» «Leggo», aveva detto lui. «Ah, e cosa c'è scritto qui?» aveva chiesto indicando un capoverso. Lui si mise a leggere a voce alta, fluentemente, e la mamma capì. Mettendo insieme le parole mandate a memoria con i segni sulle pagine dei suoi libri da bambino, mio fratello aveva decifrato il codice della scrittura. A 4 anni sapeva leggere e aveva imparato da solo. A 21 anni si era laureato cum laude in fisica. Era il candidato più giovane quando aveva ottenuto il posto di assistente universitario. Aveva soggiornato per diversi mesi all'estero, in Polonia, Irlanda, Germania e Belgio, come ricercatore o visiting professor. Diventato titolare di cattedra a meno di 40 anni, era stato nominato preside della facoltà di scienze in una università di recente istituzione nel Nord-Est. Una carriera precoce, brillante e solo per merito. Perché mio fratello era geniale, ma era anche mite, schivo e poco incline alla competizione. «Voi ragazzi volete fare tutto così in fretta», diceva nostra madre. «Rilassatevi, rallentate un momento, avete così tanto tempo davanti a voi». Ma per lui tempo non ce n'era. Era un po' come un piccolo dio, no? Un modello. ma era molto gentile, molto garbato, non faceva pesare assolutamente questa sua straordinarietà, e anche come fratello era molto gentile e per me era un po' un modello, insomma. Una sera di febbraio, nella settimana di carnevale, stavamo per andare a una festa a casa di amici quando sua moglie, una donna di qualche anno più giovane che era stata una sua studentessa, mi telefonò per dirmi che mio fratello, dopo aver sofferto di un brutto mal di testa nel pomeriggio, non riusciva più a muoversi. Lo descriveva immobile vicino al banco della cucina, come colpito da un incantesimo. Ecco perché noi medici lo chiamiamo ictus o stroke. Gli aveva messo una sedia vicino, l'aveva aiutato a sedersi, poi si era chiesta che cosa fare e aveva chiamato me, la sorella piccola, la dottoressa. Mio marito e nostro figlio, quasi 7 anni allora, camminava su e giù per il corridoio impaziente e sudato nella sua giacca di piumino. Loro andarono dagli amici. Io dovevo andare a vedere mio fratello. Lo trovai che non si lamentava, non parlava, non sembrava soffrire. Ricordo il suo sorriso gentile, il suo annuire in silenzio mentre gli chiedevo di quel brutto mal di testa. Gli diedi un'aspirina e chiamai il servizio d'emergenza. Riuscii a convincere i volontari a portarlo al mio ospedale, anziché a quello più vicino come avrebbe voluto la regola, e salì con loro in ambulanza. Mia cognata non si sentiva di guidare e avrebbe raggiunto l'ospedale in taxi. In pronto soccorso era una notte insolitamente tranquilla, poche persone, molto silenzio. Entrammo in sala visita e mio fratello maggiore, il mio super fratello, quello che sapeva tutto, quello che ricordava tutto quello che aveva imparato nel corso di tutta la sua vita, il greco antico che entrambi avevamo studiato al liceo e che io avevo dimenticato ma lui no, le filastrocche e le poesie che noi bambini, per impararle a memoria, ripetevamo a voce alta mentre insieme si apparecchiava la tavola, i nomi dei giocatori della sua squadra del cuore nel corso degli anni, le caratteristiche di strani animali che vivevano in piccole aree del pianeta come il suricata, il clamidosauro, il pangolino prima che Disney o un virus venuto dalla Cina li rendessero noti ai più, e poi i nomi delle stelle, la forma delle costellazioni che la zia gli aveva insegnato a riconoscere la sera nel cielo scuro sopra il paese in collina dove passavamo buona parte delle vacanze estive da bambini, e poi la struttura e il funzionamento dei motori delle auto da corsa e le formule e le teorie che spiegavano il mondo, dalle galassie sparse nell'universo alle microparticelle racchiuse nell'atomo, così piccole che nessuno le ha mai viste e francamente ho sempre dubitato della loro effettiva esistenza. Ebbene, questo mio fratello, questa persona gentile che si poteva consultare come un'enciclopedia vivente, adesso non era capace di dire quanti anni avesse. Would this do to make it all right? While sleep has taken you where I'm out of sight, I'll make my getaway, time on my own, search for a better way to find my way home. To your smile. Wasting days and days on this fight, always down and up, half night, hopeless to reminisce through the dark hours. We'll only sacrifice what time will allow us your side. giorno della settimana è oggi? Gli chiesi. Giovedì, rispose. Giusto. Come ti chiami? Alberto. Giusto, ma adagio, quasi sibilando. Quanti anni hai? 40. Incapace di finire di dire quella parola. Aveva da poco compiuto 40 anni. C'era un'incertezza nella sua voce e una traccia di sorriso negli occhi più che sulla bocca, come se volesse chiedere scusa perché non riusciva a trovare la parola giusta, la risposta giusta. E faceva perdere tempo a quel medico che gli ripeteva domande semplici e aspettava con pazienza una risposta che non sarebbe mai arrivata. Non c'era molto tempo. Più della metà del suo cervello se n'era andata a causa di una condizione vascolare molto rara e allora intrattabile. Durò meno di una settimana. Mio fratello, ricoverato in neurologia, sprofondava sempre più in quel sonno pietrificato che noi, i medici, chiamiamo coma. Io gli stavo vicino soprattutto la notte. Al mattino mi spostavo un paio di edifici più in là, nel mio posto di lavoro, il reparto di cardiologia dedicato ai malati con scompenso e ai trapiantati di cuore. Poi mio fratello venne trasferito in terapia intensiva per essere ventilato. Quando le sue pupille smisero di reagire alla luce, gli chiusi le palpebre sfiorandole con le dita e andai via. Non tornai a vederlo. Essendo coinvolta nella cura dei pazienti in attesa di un trapianto, non volevo e non dovevo influenzare la decisione sulla donazione degli organi. Sua moglie disse di sì, i miei genitori non dissero di no. Fui e sono grata per questo a tutti loro. Più avanti, qualche volta, mia madre tornava sull'argomento, faceva un mucchio di domande, ma nel complesso era convinta di quella scelta. Mio padre, invece, non ne parlò mai. Diversi anni dopo, quando ormai era rimasto vedovo, stampai per lui il testo del discorso in favore della donazione degli organi e dei trapianti che Papa Giovanni Paolo II aveva appena tenuto al World Transplant Congress di Roma, al quale anch'io avevo partecipato. Non disse niente, ma sono sicura che l'ha letto. Ci poteva essere qualche remora di natura religiosa, per quanto mai espressa esplicitamente, in quanto tra i dogmi della religione cattolica c'è la resurrezione della carne, no? Che vuol dire la resurrezione dei corpi dopo la fine del mondo. E quindi in un certo senso il dubbio di dire, vabbè, se il mio corpo non è integro, se ho dato via dei pezzi, come faccio ad avere questa risurrezione? A parte che allora questo vale anche per tutti quelli che sono triturati o massacrati o esplosi in mille pezzi con le bombe, volendo. Ma sembrava poco rispettoso della morte, e poi anche il fatto di associare la morte a una morte cerebrale, non al fatto che il cuore si fermi. Quindi tu hai un soggetto che sai che è morto perché il cervello se n'è completamente andato, però è ventilato, ha una pressione, ha un circolo, non è che uno ha esalato l'ultimo respiro. Ecco, allora lui invece ha tolto di mezzo ogni dubbio di natura religiosa sul fatto che la morte cerebrale non fosse la vera morte, e ha valorizzato il gesto di generosità sociale, chiamiamolo, di gratuità, di dono anonimo, potenzialmente salvavita, che si può fare attraverso la donazione degli organi. Il direttore della cardiochirurgia propose di cedere il cuore a un altro centro trapianti per evitare che dovessi prendermi io cura del suo ricevente. Lo ringraziai, ma dissi di no. In reparto attendevano al trapianto due pazienti dello stesso gruppo sanguigno di mio fratello, entrambe in condizioni critiche. Erano finiti per caso nella stessa stanza e giorno dopo giorno avevano fatto amicizia, sapessero o meno di essere in qualche modo in competizione. Non volevo che uno di loro perdesse quell'opportunità. Dopo una settimana di permesso per lutto, pensavo di essere pronta a riprendere il mio ruolo, a vedere il ricevente, il più giovane e più gravemente malato dei due pazienti, che era finalmente fuori dalla terapia intensiva, forse già in grado di muovere i primi passi dopo essere stato costretto a letto per settimane. Ma quel giovane e sfortunato paziente, pochi giorni dopo il trapianto, aveva avuto un'emorragia cerebrale. Al mio rientro tutto era pronto per prelevare i reni, il fegato e il cuore che venne trapiantato nel suo ex compagno di camera. Sarebbe felice di sapere che il suo cuore è andato al suo amico, mi disse nel congedarsi la vedova del primo ricevente. Mi resi conto che quella donna coraggiosa, che aveva saputo essere altruista nel momento in cui le sue speranze crollavano, aveva ragione. Non era più il cuore di mio fratello, era il cuore di suo marito quello che stavano trapiantando quel giorno. Mi promisi di ricordarlo nel prendermene cura. Ha funzionato quasi sempre. Il più delle volte sono stata normale, lucida e professionale. È stato un buon trapianto. Il secondo ricevente è vissuto quasi 20 anni dopo l'intervento. È tornato al lavoro, ha visto diventare adulte le sue figlie, si è risposato e ha generato una nuova vita. Immagino che sia stato abbastanza felice, o forse voglio sperarlo, o penso che avesse il dovere di essere felice, avendo ricevuto questo cuore speciale, così prezioso da essere stato donato 2 volte. Half of my whole life is gone. Felice di cominciare questa nuova stagione di Linee d'Ombra, questa nuova settimana della nuova stagione con delle storie come quelle che vi abbiamo proposto da lunedì e in particolar modo io sono molto affezionato alla storia che vi abbiamo raccontato oggi per mille motivi, perché è una storia che racconta come sempre un pezzo della vita, in questo caso di Maria e della sua famiglia, ma dice qualcosa di più, cioè dice qualcosa di noi, dice qualcosa dell'identità. Tutta la puntata di oggi, che si intitola Un dono per te, lo avrete capito, è dedicata a quello, al concetto di dono e al concetto di donazione anche, ma al concetto di identità, e secondo me questa storia la racconta molto molto bene. Pronto, ciao Maria, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuta a Linee d'Ombra, grazie davvero per averci mandato questa storia. So che sei impegnata in questo momento, sei al lavoro immagino, sei in ospedale, dico bene? Sì, sono sul mio posto di lavoro. Ok, quindi non ti rubo tantissimo tempo. Senti, tu ci hai mandato nella lettera d'accompagnamento alla storia, ci hai scritto che questa è una storia che succedeva diversi anni fa, mi ricordi più o meno l'anno preciso? Molti molti anni fa, nel 93 per la precisione. Senti, quindi da allora sono chiaramente successe diverse cose, immagino. Ad esempio tua mamma non c'è più. Sì. Tuo papà invece è ancora qui o? No, mio papà anche lui ormai è deceduto, era del 20, quindi. Senti, e come sta invece la moglie di tuo fratello? Beh, insomma, direi che manda avanti la sua vita con sufficiente saggezza. Quando hai scritto questa storia immagino che insomma tu ci abbia dovuto riflettere in maniera particolare, ma ti capita spesso di pensare a tuo fratello, di pensare a questa storia? Beh, un pochettino sì, mio fratello sì, abbastanza spesso, anche perché appunto, come credo si capisca, per me è stato un po' un mito, una persona molto speciale. Lo era secondo me obiettivamente, ma ovviamente io ho un bias nei suoi confronti a favore. E in generale, facendo il lavoro che faccio, quindi seguendo i pazienti trapiantati, mi capita sì di pensarci. E anche per esempio quando i pazienti parlano del proprio donatore o di come pensano al proprio donatore. Senti, legalmente il ricevente non potrà mai sapere chi è stato il donatore? Diciamo che c'è un diritto alla riservatezza, no? È un dovere di riservatezza. Mm-hmm. Dopodiché, se sia i familiari del donatore, sia il ricevente esprimono in maniera indipendente un forte desiderio di conoscersi, qualche volta con molta molta delicatezza dei servizi di psicologia dedicati proprio a questa questione si occupano di farli più o meno conoscere. Senti Maria, di che cosa c'è bisogno ancora oggi per sviluppare una vera e propria cultura della donazione degli organi? Ma forse di pensare che c'è gente che ha bisogno di un trapianto. Quant'è in media l'attesa per un trapianto? Nel tuo caso tu ti occupi di cardiologia, giusto? Tu sei... Sono un cardiologo, sì. Quanto tempo è, mediamente, quant'è l'attesa per un trapianto di cuore? È una cosa, è proprio la media di Trilussa, perciò ha molto poco senso, perché c'è chi aspetta pochi giorni, chi aspetta degli anni, chi non lo fa e chi lo fa dipende da tante cose, dal livello d'urgenza, dalla taglia anche banalmente, dalla facilità con cui si può reperire un donatore adatto per una certa persona, da diverse cose. Ma ad esempio, se uno volesse diventare donatore oggi, adesso, all'ascolto, dove va, cosa fa, dove cerca, come si muove? La cosa migliore è al momento del rinnovo della carta d'identità dichiararlo al proprio comune. Dopodiché esiste presso gli uffici della ASL, anche presso il proprio comune, l'anagrafe, o dal proprio medico curante si può fare la dichiarazione di volontà, che viene registrata sul documento. E in quel caso, perdonami, i parenti non vengono nemmeno interpellati, cioè se uno dichiara di voler essere un donatore di organi, quello che verrà fatto è indipendente dalla volontà della famiglia? Dovrebbe essere così, oppure si informa la famiglia di questa volontà dichiarata dal donatore. Senti Maria, l'ultima cosa poi ti lascio andare e ti ringrazio. Tu in chiusura del tuo racconto dici ho provato a immaginare che quel cuore fosse, come dire, del primo donatore e non di mio fratello, quando ho poi lavorato con quel secondo ricevente per il resto della sua vita e per gli anni che ha vissuto. Quando non ci sei riuscita? In che momenti? Beh, dunque, diciamo, prima di tutto io ringrazio la moglie del primo ricevente che mi ha fatto questo ragionamento e mi ha dato l'opportunità di applicarlo. Diciamo che è stato più difficile nei momenti magari dove questo paziente ha avuto dei problemi, no? Dove c'erano dei problemi, allora era come se gli avessimo dato qualcosa che non funzionava per lui perfettamente, oppure qualcosa che forse lui non stava utilizzando nel migliore dei modi. Quindi la personalizzazione rischiava di emergere nel momento del rischio, però diciamo che credo che l'ho controllata abbastanza bene e credo che sia stata un'esperienza che mi ha aiutato a vedere le cose da diversi punti di vista, perché un conto è fare il paziente, un conto è fare il parente, un conto è fare il medico, e impariamo qualche cosa da tutte queste funzioni, diciamo così. E quindi quella linea d'ombra di cui ci parli, appunto, tra essere medico ed essere parente, diciamo l'hai varcata e poi rivarcata e poi rivarcata più e più volte, mi sembra di capire. Beh sì, però diciamo con maggiore agilità. Chiarissimo. Non è, direi, con meno fatica col tempo. Maria, ti ringrazio davvero tantissimo per la storia e il tempo che ci hai dedicato. In bocca al lupo per tutto. Grazie a te, grazie agli ascoltatori, un saluto. A presto. Grazie mille. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linea d'Ombra. Questa è una puntata che parla di doni, di donazioni e soprattutto di trapianti. Dopo la bellissima storia di Maria, ora ve ne raccontiamo un'altra. Questa storia è stata presa dal National Geographic, è stata una storia di copertina di 2 anni fa. Ed è una storia che parla di un argomento molto delicato, che ha a che fare certo con la donazione, certo con il trapianto, ma di un organo che non è un organo interno e che quindi è invisibile, ma di un organo che è forse la parte più visibile del nostro corpo, che è la nostra faccia, quindi il naso, la bocca, gli zigomi, i lineamenti, quelli che noi quando ci guardiamo allo specchio, quando riguardiamo una foto, vediamo e riconosciamo. Ecco, parla di una giovane donna che si trova a causa di un tentativo di suicidio, fortunatamente non andato a buon fine, che però ha avuto delle conseguenze molto gravi sul suo viso. Ebbene, si trova a dover fare questa scelta, la fanno i medici, la fanno i genitori insieme a lei. Ecco, questa storia, che è una storia molto lunga, che si trovava in quell'edizione di 2 anni fa del National Geographic del settembre del 2018, si racconta esattamente l'iter dall'inizio fino alla fine fino a trapianto avvenuto e noi vi raccontiamo questa storia. Katie aveva solo 18 anni quando perse la sua faccia. Le foto precedenti mostrano una ragazza con un grande sorriso, giovane, carina. Immagini che però non convincono oggi Katie. Non mi sono mai sentita bella, racconta. Katie ha mostrato presto di avere grande senso dell'umorismo, sin da ragazzina, qualità che aveva in comune con il fratello, Robert. Crescendo però, si metteva costantemente sotto pressione da sola. Voleva essere la migliore in tutti gli sport, anche quelli che non aveva mai praticato, racconta la sorella, Olivia. Voleva eccellere a scuola, studiava per ore ogni giorno. Insomma, tutto procedeva come deve procedere per una ragazza nel pieno della sua adolescenza. Nell'ultimo anno di scuola il suo mondo però va in pezzi, i genitori vengono licenziati e restano senza lavoro. Qualche settimana dopo, Katie trova nel telefono del fidanzato alcuni messaggi che sono diretti a un'altra ragazza e quando gli chiede spiegazioni, lui la lascia, lì, su due piedi. That day started out like a lot of days. Katie was finishing up, that was her senior year. She was upset. Quel giorno era cominciato come tanti altri, dice il padre di Katie. Katie stava finendo l'anno scolastico, era molto arrabbiata quel giorno, aveva litigato col suo fidanzato. Eppure non c'era niente nella sua voce, non c'era niente che di fatto poteva farti pensare che qualcosa di grave stava per accadere. Ferita e arrabbiata, Katie va a casa del fratello, Robert, dove comincia ad inviare SMS camminando furiosamente avanti e indietro. Poi afferra il fucile da caccia del fratello, si chiude in bagno, se lo punta sotto il mento e preme il grilletto. Robert in un'altra stanza sente l'esplosione, sfonda la porta del bagno con un calcio e trova la sorella ricoperta di sangue. Il proiettile si comporta come un ladro spietato e le ruba parte del viso. Ecco, è in queste condizioni che più di 5 settimane dopo, Katie, sopravvissuta, viene portata in una clinica a Cleveland, in Ohio. Nell'ospedale del Tennessee, infatti, dove era arrivata l'ambulanza pochi minuti dopo l'esplosione, i medici le avevano sì salvato la vita, ma per il suo volto non erano riusciti a fare nulla. Grassman, che è il primo medico di Cleveland che visita Katie, la adagia su una barella, chiedendosi se ce la farà. Era così minuta, racconta. Pesava appena 48 kg. In 27 anni di carriera, Grassman aveva visto pochi traumi facciali di quella gravità. Il medico organizza subito un'equipe multidisciplinare composta da 15 specialisti per prendersi cura dei diversi traumi che sono coinvolti. La famiglia di Katie dice che il dottor Grassman vuole bene a Katie come ad una figlia. Siamo nel marzo del 2014. Attraverso una serie di interventi, i medici stabilizzano le condizioni di Katie, le ricostruiscono il volto come possono. In tutto questo, Katie non ha mai più riguardato la sua faccia, ma ha imparato a conoscerla al tatto e le ha dato un nome. Shrek. Per lei l'anno 2004 è come se non fosse mai esistito. Non ricorda nulla, né l'incidente né le prime operazioni. A quel punto medici e famiglia decidono che l'unica soluzione è tentare un trapianto facciale totale. È un'operazione andata a buon fine pochissime volte nel mondo. La prima è avvenuta in Francia nel 2005. Gli anni successivi Katie li passa a Cleveland, in ospedale, in attesa di un donatore e del suo volto. I suoi genitori si trasferiscono in un monolocale poco distante dall'ospedale, finanziato completamente dai fondi della ricerca sui trapianti facciali. Katie riprende a vivere, a studiare, nonostante le difficoltà che un volto disarmonico come il suo possono dare nella vita di tutti i giorni. E poi, finalmente, una mattina, il dottor Grassman entra nella sua stanza e le dice: "Ci siamo." What's going on? Could this be my understanding? It's not your fault. I was being too demanding. I must admit, it's my pride that made me distant. All because I hoped that you'd be someone different. There's not much I know about you. Fear will always make you blind. But the answer is in clear view. It's amazing what you'll find face to face. Oh, tried to forget until I hit the bottom. But when I faced you in my blank confusion, I realized you weren't wrong, it was a mere illusion. It really didn't make sense just to leave this unresolved. It's not hard to go the distance when you finally get involved face to face. I didn't lie to you. It's gonna happen. It's happening now. Hai visto? Non ti stavo mentendo. Sta per accadere. Sta per accadere adesso. Dice il medico a Katie. Anche semplicemente chi sei tu, il modo in cui stai lottando e il modo in cui vuoi uscire e il modo in cui ispiri così tante persone. Ecco, questo è già un miracolo. Alle 7.30 del mattino di un giorno di maggio di 2 anni fa, 11 chirurghi si riuniscono nella sala operatoria dell'ospedale di Cleveland, dedicato ai trapianti. Per l'ultima volta, il dottor Grassman passa in rassegna le fasi dell'operazione su un foglio di carta attaccato al muro. Per mesi, a intervalli regolari di 2 settimane, i chirurghi si sono esercitati per quel momento specifico. Una squadra rimuoveva il volto di un donatore e l'altra lo trapiantava su un ricevente. Una decina di minuti dopo arriva la donatrice, è una giovane donna di nome Adria, morta per overdose. I medici iniziano a lavorare sul suo volto e 4 ore dopo sono pronti per far entrare in sala Katie. «Ci prenderemo cura di te», le dice Grassman. «Il nostro obiettivo è che quando ti sveglierai, tu ci chieda, bene, quando si comincia?» Il lavoro sul volto di Katie dura 12 ore. Solo dopo la mezzanotte i medici riescono ad appoggiare il nuovo volto su quello di Katie. Dopo altre 6 ore di operazione però, Grassman esce dalla sala operatoria perché deve parlare con i genitori. C'è un problema con le dimensioni del viso della donatrice. È più grande del previsto e quindi, a questo punto, ci sono 2 possibilità. Effettuare un trapianto solo parziale, ma in questo caso il viso sarebbe molto meno armonico, oppure continuare con il trapianto totale, cosa che però potrebbe obbligare Katie a prendere medicine antirigetto per tutta la vita. La mamma di Katie guarda il medico e gli dice: «Dottore, seguite il vostro cuore, fate come se fosse vostra figlia». «Io credo che Katie vorrebbe quella totale», dice Grassman. La decisione è presa alle 3 del pomeriggio, 31 ore dopo l'inizio dell'intervento sulla donatrice, i chirurghi finalmente finiscono di suturare lo strato superiore della fronte, attaccando l'intero volto. Grassman si incarica di riferire ai genitori che l'intervento è andato bene. Qualche ora dopo, i genitori e il fratello di Katie entrano nel reparto di terapia intensiva e rimangono in silenzio accanto al letto guardando la nuova faccia della figlia. Il fratello, Robert, aveva visto le foto fatte da Grassman e quindi non è turbato. Nota anche che la sorella ha una fossetta sul mento che prima non aveva. «Come Kirk Douglas», aggiunge il padre. La mamma invece accarezza il braccio di Katie e si sforza di vederci Katie dietro quei nuovi lineamenti. Desidera con tutto il cuore vederci lì dentro sua figlia. Alone, listless, breakfast table in an otherwise empty room. Young girl, violins, center of her own attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shades go down it. Don't call me. Questa è una storia che era stata la copertina di National Geographic nel settembre di un paio di anni fa. La storia era lunghissima, è complessissima e la trovate, se vi interessa, sul sito di National Geographic, che esce prima cartaceo e poi diventa digitale. Si intitola How a Transplanted Face Transformed Katie Stubblefield's Life, cioè come un volto trapiantato ha trasformato la vita di Katie Stubblefield. Credo ci sia anche nella versione italiana, o meglio credo che la versione italiana sia solo sul cartaceo, la versione integrale, mentre quella integrale la trovate in inglese anche sul digitale. Ci sono ovviamente anche le immagini di questa storia, alcune immagini sono immagini piuttosto forti, non sono immagini proprio specifiche del trapianto, però insomma chiaramente sono immagini che raccontano questa storia, raccontano il volto di Katie dopo l'incidente, dopo lo sparo, e il volto di Katie anche ora dopo il trapianto. Sono passati 2 anni e noi ovviamente facciamo a lei tutti gli auguri possibili. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui la nostra storia seriale, sempre a Linee d'ombra. Linee d'ombra. E stanno cominciando ad arrivare i messaggi audio WhatsApp al numero che abbiamo istituito, al numero che è stato dedicato tutto a Linee d'ombra, al 331-57-55721. 331-57-55721 per ricevere i vostri audio, i vostri racconti dalla vostra viva voce sulla linea d'ombra che state attraversando in questo momento, nel presente, quindi non quella che avete attraversato, quella che avete vissuto, che continuate in quel caso a mandarci per iscritto, ma quella calda, quella che sta accadendo adesso, quella che ancora non sapete come andrà a finire, da che parte del confine starete, vi troverete. Se avete voglia di condividerla, qualsiasi sia quell'esperienza, che sia appunto un pezzo di vita sportiva, sentimentale, professionale, di viaggio, di incontri, siamo felicissimi di poterla raccontare, o meglio di farvela raccontare, perché noi non interveniamo se non mettendo probabilmente un po' di musica sotto il vostro racconto, un paio di minuti di audio, non troppi di più, un po' di meno magari va bene, ma non troppi di più, altrimenti facciamo davvero fatica a farcela stare nel programma. Il numero, ve lo ripeto, è il 331-57-55721. Questa però è la parte dedicata alla nostra storia seriale. Ecco, ogni tanto ci tengo a raccontarvi come la costruiamo, come Mauro Pescio la costruisce, come va a cercare le storie e come poi le approfondisce, ci scava fino al cuore per cercare di restituircele con più voci, con più suoni e con più contributi. Una volta trovata la storia, una volta trovata in questo caso questa storia davvero regalata all'archivio di di Beve Santo Stefano e dall'archivio a loro volta regalata a chiunque avesse voglia di leggerla, anche grazie al libro che si intitola proprio La ridotta Isabelle, scritto da Antonio Cocco. Una volta individuata questa storia, una volta chiesto il permesso all'archivio, una volta che l'archivio ci ha messo in contatto con la famiglia Cocco, Mauro ha cominciato a fare una lunga ricerca, a contattare i familiari. Avete già sentito la voce soprattutto di Giovanni e di un nipote, che laddove la storia diventa un po' più intricata, laddove la storia di questo giovane ragazzo che nel 52 ha una piccola brutta esperienza scolastica e decide di andarsene, di partire, di lasciare Venezia, di lasciare l'Italia, di trovarsi in Francia clandestino e di accettare di arruolarsi nella legione straniera contro ogni sua volontà, di fatto, e contro ogni suo sogno, e da lì si troverà in pochissimo tempo a combattere in Indocina. Ecco, però, passaggio per passaggio, da lì in avanti tutto quello che Mauro ci racconta sono pezzi molto precisi del viaggio di questo giovane uomo. Mauro ha deciso di dare anche un piccolo titolo a ciascun episodio e sono titoli che dicono qualcosa di quello che stiamo per andare a sentire. Questo episodio si intitola Ci hanno presi, e ora capirete il perché. Da Bardonecchia abbiamo deciso di andare in qualche albergo per tentare di passare il confine il giorno dopo. Difatti così abbiamo fatto. 3 erano le nostre possibilità di riuscita. La prima era il treno, tentando di farcela alle spalle dei contrabbandieri. Questa però ci andò male. La seconda era quella di passare attraverso delle montagne alla sinistra del paese, ma anche questa andò buca. L'ultima carta, tentata giorno 27, ci riuscì ed era la più difficile.

insomma, le sentite, sono le parole vive e brucianti di Antonio Cocco, di Tony, questo ragazzo di 18 anni che si ritrova in Francia, si ritrova arruolato nella legione straniera e comincia a scrivere a casa queste lettere disperate al padre, in cui da una parte chiede scusa per quello che ha fatto e dall'altro tra poco comincerà, già lo fa in queste primissime lettere, comincerà proprio a chiedere aiuto, a chiedere un soccorso vero e proprio. Vi ricordo che se volete saperne qualcosa di più potete leggere il libro La ridotta Isabel, pubblicato in Italia da Terre di Mezzo. Grazie a Mauro Pescio, grazie ai Cocco che ci raccontano questa storia, grazie a Luca Micheli, Paolo Corleoni, Anita Panizza. E ora noi lasciamo la linea al GR e torniamo domani puntualissimi a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!